Chiama i miei pensieri, la comprendo dal suono del tramonto, mentre sul mio corpo l'edera ramifica. Conversazione col silenzio, urla la mia coscienza labirintica, parla, si muove tra le piante che si alzano all'impeto del sole che protegge la falda arida del cuore della terra. Come un proiettile duttile si insina nel mio sangue, l'istinto mio selvaggio ascolta la natura, racconta la sua storia, cerca il dialogo con l'uomo, si dispera, mi guardo attorno, erbe e funghi sacri nella foresta muta. Mistero, alone di un pensiero, tiepido profumo, risveglio consacrato ormai da tempo, sento il buio, barcollo nell'oscuro, il cielo si atrofizza, scultura centenaria che oscilla, paralizzata, l'ossigeno che avvolge l'atmosfera, incatena l'anima, solo nebbia pallida, niente vento, opprime tutto ciò che sento dentro. Radici verso il cuore. Essenziale, indispensabile. È la voce della terra che ci chiede aiuto, che ci osserva restando immobile, tra segnali ignari, incapaci di capire che ho la connessione con la mia linfa vitale che scorre, scivola raggiante fra le vertebre, avanza, limpida, si muove fra le costole, scambio di energia inconsapevole, ritorno ad essere figlio della terra, creduta sterile.